Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornate, bentornati alla finestra sul cortile e buona domenica a tutti. Estate è il momento di mettersi in viaggio e allora oggi parliamo di mappe. Mappe per i naviganti reali e virtuali, per chi ama sfidare il mare aperto e gli oceani e per chi si accontenta invece di guardare su Google, di curiosare nei fondali dell'Atlantico o del Pacifico e magari scoprire città sommerse stando comodamente seduto davanti al computer. E parleremo anche di altre mappe, mappe per aiutare le donne a ritrovare la rotta giusta nelle tempeste familiari, nelle cause di divorzio, in un paese maschilista e autoritario come l'Egitto. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il menù di oggi. Inghilterra. Parla l'oceanografa che ha convinto Google Earth a mappare anche il fondo del mare. America. Leggere con lentezza, la tecnica di un professore per riscoprire il piacere della parola scritta. Visti dagli altri. Francia. Ben accolto dalla critica d'Oltralpe, l'ultimo libro di Henri De Luca. Egitto. Radio Motalakat, l'emittente che dà voce alle donne divorziate. Inghilterra. Arte e voyeurismo in mostra alla Tate Gallery. Germania. La musica romantica addolcisce le ragazze e favorisce la conquista. Lo conferma una ricerca. Bacanda corda, Marsale guede sa, cane liga ne porta, antena cresa del mar. E andare, e andare, e andare. E la voce inconfondibile di Fabrizio De André in Cresa del mar ci accontroduce al primo tema della puntata di oggi, che è per l'appunto il mare, gli oceani, perché Cresa del mar significa viottolo di mare. Insomma, in questa canzone Fabrizio De André aveva sperimentato una specie di lingua del mare, un esperanto dove, lui diceva, le parole hanno il ritmo della voga del marinaio che tira le reti da pesca. E lo spunto ce lo dà un'intervista sul Financial Times all'oceanografa Sylvia Earle, che ha aiutato i responsabili di Google a mappare gli oceani. Racconta in questa intervista Sylvia Earle che nel 2006 era una conferenza in Spagna e parlava dell'importanza degli oceani nello studio della Terra, e ha notato che tra gli presenti c'era il creatore di Google Earth, e allora lo ha chiamato in causa dicendo: ma dice, voi mappate soltanto le parti emerse del pianeta, dovreste chiamarlo non Google Earth ma Google Dirt, cioè Google sporco, insomma, perché in realtà la Terra è fatta in gran parte di acqua. E da questo nacque, insomma, questa iniziativa, questo nuovo ampliamento dello sguardo di Google anche sugli oceani. E racconta appunto Sylvia Earle che poco tempo dopo, insomma, quando il progetto è andato in porto, si poteva sedere al suo computer e vedere il canyon di Monterey e vedere le balene che si tuffavano, rimanendo seduta nel suo ufficio. E poi racconta ovviamente tutta la sua formazione di oceanografa e la sua passione per gli oceani. Ma di passione per gli oceani parliamo con una persona che se ne intende più di ogni altro, ed è Giovanni Soldini, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi, Giovanni Soldini, un velista italiano che tutti conosciamo, diventato famoso soprattutto per le sue navigazioni solitarie. A 16 anni no? ha compiuto la prima traversata dell'Atlantico, vero? Sì. Ecco, lei usa Google Ocean, lo conosceva immagino l'esistenza? No, non ne conoscevo l'esistenza fino a che non ho letto questo articolo, adesso andrò subito a vederlo. Ecco. Beh, però so che lei usa per esempio YouTube, che i suoi fan possono seguire su YouTube le sue imprese. Sì. Ecco, questo. Quindi diciamo su queste tecnologie, di queste tecnologie è un frequentatore, ecco. Sì. Ma ecco, ma diciamo che la sua, mentre la passione appunto di questa Earle è più per andare sott'acqua, insomma, la sua passione per gli oceani è stata più in superficie, li ha conosciuti più navigando. Esatto, sì, sì. Ecco, in che stato sono gli oceani? Adesso questo miliardario David Rothschild è partito con questa zattera che si chiama Plastiki, in ricordo della famosa Contiki di Thor Heyerdahl, fatta tutta di bottiglie di plastica per denunciare al mondo, all'opinione pubblica, il degrado ambientale. Ecco, nella sua esperienza com'è? Sicuramente quello che stiamo facendo come società sviluppate sia alla terra che agli oceani non è cosa da poco, no? Direi che sicuramente c'è un problema di inquinamento generale, ma poi c'è anche un problema di sfruttamento delle risorse a livello industriale che mina la possibilità di in qualche modo di mantenerle queste risorse, no? Certo. Ecco, ma quali sono i luoghi, i punti più critici che lei ha potuto vedere di persona, insomma, nella sua esperienza? Più critici o meno critici, ce n'è tantissimi di esempi, non so, dal Golfo di San Lorenzo in Canada, che sembra uno dei posti, un posto stupendo, pieno di balene, belude, delfini bianchi, la natura, gli orsi, che ne so, e poi in realtà si scopre che il San Lorenzo è uno dei fiumi più inquinati del mondo, pieno di metalli pesanti, perché le grandi fabbriche statunitensi scaricano di tutto nei grandi laghi. Certo. Ma ce n'è mille di esempi, no? Il punto è proprio un atteggiamento un po' generale, nel senso che se non si capisce che il mare è una risorsa preziosa e quindi va difesa e mantenuta, nel giro di pochi decenni ne pagheremo le conseguenze. Ecco, lei ha visto che il primo giorno di estate, lunedì scorso, Greenpeace ha fatto una manifestazione in Piazza di Spagna a Roma con una enorme balena contro la Commissione Baleniera Internazionale, perché a suo dire, insomma, a dire di questa organizzazione ambientalista, stanno svendendo, insomma, la caccia alle balene e i paesi ricchi premono sui paesi poveri proprio per ottenere un voto favorevole alla prosecuzione della caccia. Esatto, beh, questo non è che a suo dire, questo è un dato di fatto. I paesi interessati comprano i voti dei paesi poveri che magari non hanno neanche alcun interesse, insomma. Quindi c'è una corruzione a livello internazionale su questo fronte. Su questo argomento poi c'è una corruzione, ma anche una lobby potentissima, perché comunque ci sono interessi economici molto grossi e quindi i giapponesi in primis, ma non solo loro. Non solo loro, purtroppo non solo loro, anche i norvegesi sono dei maestri. Soldini, l'abbiamo trovata in partenza per qualche nuova impresa? Ma sto cercando di mettere insieme un team italiano per fare la Volvo Ocean Race, che è il giro del mondo in equipaggio, che partirà nel 2011, a ottobre 2011, e farà appunto il giro del mondo. Magnifico, allora ci prepariamo a seguirla in questa sua nuova impresa. Intanto buona domenica e auguri per tutto. Arrivederci, grazie mille. Dallo slow food allo slow reading, è di moda la lentezza e un professore del New Hampshire ha proposto di rallentare i tempi di lettura nelle scuole per educare i ragazzi a difendersi dalla velocizzazione della comunicazione dovuta alle nuove tecnologie, perché noi passiamo il nostro tempo a leggere messaggini, email, a guardare siti internet, insomma il nostro occhio, la nostra attenzione è continuamente sollecitata da contenuti che passano rapidamente davanti ai nostri occhi e nella nostra mente, spesso senza lasciare traccia. Invece questo professore Thomas Newkirk sostiene che bisogna ritornare a leggere ad alta voce e imparare a memoria i testi per assaporare le parole, centellinare le pagine come si fa con un bicchiere di buon vino. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica sugli italiani famosi all'estero ci porta questa domenica a Parigi, dove è approdato Harry De Luca, intervistato dall'Express da Julien Bisson, per l'uscita del suo nuovo romanzo Le jour avant le bonheur, che è la traduzione francese del giorno prima della felicità, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Nell'intervista all'Express Harry De Luca racconta il suo rapporto con il dialetto napoletano e con la sua città odiata e amata, la quale ritorna sempre, e tra l'altro dice che per lui la scrittura è il contrario del lavoro, è un momento di felicità, di riposo e di creazione che non lo affatica affatto. E poi parla del suo rapporto con le sacre scritture, con la lettura della Bibbia, che dice però questo non significa che io sia credente, dice, io non arrivo a dare del tu alla divinità, bisognerebbe vedere se la divinità sarebbe disposta a dare del tu a Harry De Luca. La finestra sul cortile. Perché è ormai storicamente accertato che anche qui da voi, nel vostro bel sud, che io ho il piacere di visitare per la prima volta, è giunto al fine il momento di affrontare il secolare problema dell'emancipazione della donna, così come esso è stato affrontato e risolto, per esempio, dai nostri confratelli cinesi. Pertanto, io vi invito ad esprimere il vostro democratico parere sul fatto, cioè a dire, quale giudizio sereno ed obiettivo merita la signora Cefalù. Bondana! Bondana! Era una scenetta da Divorzio all'italiana, un film del 61 diretto da Pietro Germi, che affrontava con feroce sarcasmo l'arretratezza italiana dell'epoca, la pratica del delitto d'onore nel sud Italia soprattutto, e il trattamento che ricevevano le donne separate o prima ancora che ci fosse il divorzio. Ecco, ma questo trattamento delle donne lo troviamo più o meno simile nell'Egitto di oggi e forse anche in altri paesi arabi, e ne parla Amani Abdel Monaim su Al-Aram Weekly, e parla soprattutto di una iniziativa di una donna coraggiosa, Mazen Saber, che ha fondato una radio sul web proprio per dare voce alle donne divorziate, che in Egitto godono appunto di una pessima reputazione e di pochi diritti. Saber è la stessa, una donna divorziata con un figlio di 5 anni, e ha fondato questa radio che si chiama Motalakat Radio, che vuol dire appunto radio delle donne divorziate, in cui dà informazioni e consigli alle donne che affrontano cause di divorzio, che in Egitto sono spesso lunghissime. Nel suo caso, per esempio, lei era stata sposata per 3 anni e la causa di divorzio è durata 4, quindi più del suo matrimonio. Si calcola, si scrive in questo articolo Amani Abdel Monaim, che in Egitto un terzo degli matrimoni finisce entro i primi anni, e ci sono 13 milioni di single tra uomini e donne nel paese. In questo momento ci sono almeno 250.000 donne egiziane che sono coinvolte in cause di divorzio, e alcune di esse ricorrono al concetto della incompatibilità. Però, dice, facendo causa per incompatibilità si rischia di perdere i diritti di proprietà e la propria dote. Mentre invece se si affronta la causa in maniera consensuale, il processo va avanti a lungo e i tribunali spesso sono tendenzialmente contrari agli interessi della donna, mentre invece per gli uomini è molto più facile chiedere il divorzio dalla propria moglie. Ma intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite Paola Caridi, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere alla finestra sul cortile con noi. Paola Caridi, giornalista ed esperta di Medio Oriente, spesso abita e lavora in Egitto, anche autrice ultimamente del libro su Hamas, che ha fatto molto discutere. Ecco, immagino che questo racconto non la colga di sorpresa, conosce molto bene la condizione del femminile in Egitto. Sì, non mi coglie di sorpresa, io tendo sempre, come dire, a descrivere queste cose pensando anche a noi e per esempio alle cause di divorzio in Italia che sono, se non altrettanto lunghe, poco ci manca, e anche alla situazione della donna divorziata in Italia. Certo è che la donna divorziata in Italia non sta meglio, anzi sta peggio. C'è stato un cambiamento nella legge di famiglia, nel diritto di famiglia 10 anni fa, che ha tentato di superare appunto questo gap fra uomini e donne, soprattutto riguardo all'affidamento dei figli. Eh sì, l'affidamento ce l'hanno sempre le madri, non è che voglio fare la parte dei padri, fare il difensore d'ufficio. E invece in Egitto è semmai il contrario, quando si chiede appunto, quando una donna chiede il divorzio rinunciando per esempio all'eredità e alla dote, soprattutto il problema è quello dell'affidamento dei figli, quindi c'è un problema serio riguardo alla condizione delle donne, che però non riguarda solo le donne musulmane. Ricordiamo che in Egitto c'è un 10% della popolazione, forse un pochino di più, il 12% della popolazione che è cristiana copta. Certo. In quel caso alle donne cristiane copte va addirittura peggio perché non hanno il divorzio. Infatti bisogna pensare che nel Medio Oriente e nel mondo arabo, e uso tutti e due i termini, si capirà fra un po' perché, il matrimonio civile è una specie di araba fenice, appunto. Esiste il matrimonio religioso per le comunità religiose, non il matrimonio civile. In Israele anche non esiste il matrimonio civile, esiste il matrimonio religioso per ogni comunità religiosa, quindi la comunità ebraica, la comunità cristiana e la comunità musulmana dentro Israele. Lo stesso nei paesi arabi, cioè in Libano, in Egitto. Cosa vuol dire? Che il diritto di famiglia riguarda in questo caso le donne musulmane in Egitto. Le donne copte, visto che sono cristiane, non possono divorziare in nessun caso, cioè non esiste un divorzio civile, ed è peraltro un problema serissimo che è stato affrontato in questi giorni, suscitando polemiche a non finire, dalla Corte Suprema egiziana, perché come reagisce lo Stato di fronte per esempio a degli uomini, a delle donne copti che vogliono divorziare in Egitto, visto che esiste solamente il matrimonio religioso? Beh, è una grave disparità, insomma, no? Quindi questo chiaramente andrà affrontato. Sì, insomma. Questo rende anche più complessa l'immagine che noi abbiamo del mondo arabo, perché noi pensiamo alla condizione delle donne musulmane, ma il mondo arabo è un pochino più complesso, anche se indubbiamente le donne musulmane poi rappresentano la grandissima maggioranza delle popolazioni che ci sono fra Casablanca e lo Yemen, per così dire. Però sì. L'altra cosa interessante di questo caso, appunto, di Radio Divorzio, di Radio Motalakat, è una cosa che non riguarda né il divorzio né gli uomini né le donne, cioè il fatto che sia stata creata una radio. Ora in Egitto è certo. Un po' come succedeva in Italia negli anni 70, non ci sono radio private perché devono avere il consenso dello Stato. E allora che succede? Che si crea una radio su internet, come nel caso di altre radio cosiddette comunitarie su internet nel mondo arabo, con l'unica eccezione del Marocco, in cui da alcuni anni le vie dell'etere sono state parzialmente aperte, lasciando come dire, libera la voce di alcune radio, di una decina, che hanno già suscitato grandi problemi, nel senso che alcuni tabù sociali, per esempio anche riguardo il rapporto fra uomini e donne, il matrimonio matrimonio e il divorzio sono vengono affrontate oggetto di come succedeva in Italia negli anni 70. Certo, quindi insomma le nuove tecnologie aiutano in qualche maniera anche le minoranze e le quote deboli della popolazione ad esprimersi con maggiore libertà. Noi ringraziamo Paola Caridi, buona domenica e a presto. A risentirci. E adesso ci spostiamo a Londra, alla Tate Modern, è in corso una mostra sul voyeurismo nell'arte e nella fotografia. E questa mostra è fino al 3 ottobre e tra l'altro espone le prime immagini erotiche di Auguste Belloc e le prese dal vivo di Diane Arbus, di Henri Cartier-Bresson fino ai fotografi contemporanei. E la domanda è se nell'era di Facebook e dei reality show stiamo diventando una società di voyeur. Il bello è che in Italia chi ci ha reso tali creando la TV commerciale adesso vorrebbe impedirci di vedere e di leggere. E ci spostiamo in Germania, sulle pagine dello Spiegel, si parla di una scoperta scientifica a proposito del potere seduttivo della musica, che flirtare con una ragazza a suon di canzoni romantiche aumenti le probabilità di conquista, beh, sai che scoperta, lo sapevamo da mo, come si dice. Ma se prima lo diceva solo l'esperienza, adesso è la scienza a confermare questa tesi, questo luogo comune, perché una squadra di psicologi ha appurato che chiedere il numero di telefono a una donna dopo averle fatto ascoltare in sottofondo delle ballate sentimentali aumenta vertiginosamente la sua disposizione a fornire il numero di cellulare. E lo studio, intitolato Love is in the Air, pubblicato sulla rivista Psychology of Music, è soprattutto una rivincita per chi crede negli effetti benefici della musica. Solo qualche tempo fa, infatti, alcuni psicologi austriaci avevano sconfessato il mito che ascoltare Mozart renda più intelligenti. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica a tutti.